È un cammino nella paura, certo, è un cammino di memoria, è un cammino di narrazione, di restituzione, è quello intrapreso dall'ospite di Fahrenheit, che si autodescrive effettivamente come viaggiatore, perché è su un treno, è diretto a Roma per una consulenza possibile per un progetto di documentari che riguardano esattamente il terrorismo di matrice jihadista. Però diventa un'altra cosa, diventa una riflessione sulla paura precedente, su quella che probabilmente abbiamo dimenticato. Alessandro Gazzoia, benvenuto. Grazie di avermi invitato. Allora, Alessandro Gazzoia ha scritto per Il Saggiatore Giusto Terrore, storie dal nostro tempo conteso. Non è un saggio, non è un'opera di narrativa, è tutte e due, come spesso avviene, cioè uno di quelli importanti ibridi di non fiction novel, come si suol dire, cioè quindi di racconto che si basano su un fatto reale. Allora io vorrei partire proprio dal concetto di paura, perché lei giustamente in treno si guarda intorno, ci sono giornali che commentano e titolano ovviamente in modi diversificati a seconda dello schieramento politico del giornale, a commento dell'ultimo attentato compiuto dall'ISIS o dall'ultimo video che mostra un'esecuzione dell'ISIS, ci sono altri viaggiatori che sfogliano i loro iPad. È la paura, secondo lei, anzi il giusto terrore, il sentimento più diffuso e anche forse più paralizzante del nostro tempo? Forse il più diffuso no, certo è uno dei sentimenti che vengono più pubblicizzati e che funzionano di più, perché diciamo che il grande successo, tra virgolette, del terrorismo, che è sempre un atto comunicativo, è di poter raggiungere una grossa diffusione. Lo vediamo anche dalla cronaca recentissima, dove sulla base di fatti ancora tutti da accertare vi sono un continuo discorrere su attacchi terroristici imminenti o addirittura progettati. Quindi è un dispositivo che va a, diciamo, collegarsi al nostro sistema dei media e risponde a una precisa strategia di chi invece, facendo questi atti di terrorismo, lo vuole comunicare. Diciamo che è una cosa che funziona giocando su molti tavoli diversi. Quindi da una parte lei dice è un dispositivo che si autoalimenta per quello che riguarda la comunicazione, dall'altra invece è parte di una strategia precisa. Sì, perché difatti una delle cose che, facendo l'esempio, diciamo così, dell'ISIS, che è quello che abbiamo tutti più presente, che si dimentica sempre, è come la loro strategia comunicativa sia diversificata, nel senso, per quelli che devono essere terrorizzati vi è un certo immaginario iperviolento e addirittura che potrebbe ricordare il Gran Guignol o il gore dei videogiochi. Invece per chi deve essere convertito vi sono o per, tra virgolette, simpatizzanti, vi sono anche altri esempi di messaggio. E dalla parte invece di chi fa comunicazione, diciamo così, nei paesi che sono terrorizzati, vi è comunque sempre la famosa scelta che noi in Italia abbiamo vissuto già 40 anni fa, tra come dire, cosa censurare, le varie strategie. È un discorso molto complesso, ma non lo so, mi capitava di vedere in questi giorni su una televisione All News che sul nulla venivano costruite ore e ore di conversazioni che poi però hanno degli effetti sulla vita vissuta, nel senso che uno la sera magari sta attento a dare due giri alla porta. Sembra una stupidata, però questi meccanismi poi funzionano ed è anche, diciamo così, l'avvio narrativo del mio libro, dove c'è un sentimento che oggettivamente nasce dal nulla, perché non vi è nessun segnale chiaro che debba succedere qualcosa. Però andando a incastrarsi in un ambiente stramotivato di questi messaggi, anche quello che non è reale può diventare reale. Diciamo che, per chiudere, lo dico già da subito perché per me è un punto fondamentale: anche l'immaginario è reale, perché produce effetti. Certo, sulla realtà. Allora, noi abbiamo aperto questa trasmissione a proposito di memoria con le parole di Sebald dagli anelli di Saturno, quando diceva appunto non c'è memoria, non abbiamo memoria, troppi sedimenti e troppe morene. Allora lei è andato a scavare fra i sedimenti e le morene. Nella nostra storia, poi relativamente recente, però una storia che, salvo diciamo così, le celebrazioni d'occasione, e neanche tutte, non viene ricordata, perché lei si chiede semplicemente come si stava sull'Italicus il 4 agosto 1974, come si stava alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. La paura di quegli anni, che erano anni di terrorismo, anni di morte, anni di stragi, nella maggior parte dei casi ancora non chiarite, nonostante in alcuni casi come Bologna si sia andati a sentenza, ma ancora appunto molti sono i lati oscuri per quello che riguarda quell'avvenimento. Ecco, perché quella paura non viene ricordata? È come se lei è un esperto di rete, anche di comunicazione, Gazzoia, lei sa bene, molto meglio di me, di come la rete a volte azzeri la memoria, no? Ecco, è questo, è soltanto questo? Oppure siamo condannati a aver memoria breve? Il problema della memoria breve sicuramente è importante. Io sono anche convinto che vi sia, oltre a una memoria breve, una memoria estremamente selettiva, e in un paese, diciamo così, di difficili equilibri come l'Italia, si è scelta una memoria pacificata, con una, comunque, quella che continua a essere in un modo o nell'altro una rimozione di quelli che sono stati gli anni 70 e i primi anni 80. Diciamo che i conti con quel decennio non sono stati ancora chiusi, e sono passati 40 anni. Io mi ricordo quando ero ragazzo che sembravano sul punto di chiudersi, e nel libro ci sono queste cose, sì, di inizio anni 90, sono passati 25 anni e siamo allo stesso punto, e questo è strano, però è anche da dire che io penso sia l'ultima epoca. Di nuovo uso il termine non in senso positivo, ma come connotazione eccezionale della storia italiana, e non è stata elaborata. È come se lei conducesse un doppio cammino, in un certo senso. Il tratto unificante è sempre quello, il giusto terrore, come recita il titolo del libro. Però da una parte c'è appunto la storia non solo degli anni 70, perché poi va a citare anche quello che avviene sempre in un treno molto tempo dopo, fra la fermata di Cortona e quella di Castiglion Fiorentino, quando vengono individuati Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, ed è un conflitto sanguinoso quello che deriva da quel riconoscimento. Ecco, da una parte c'è la ricognizione nel terrorismo italiano, e dall'altra invece c'è, parallelamente, c'è la ricognizione nell'altro terrorismo, anche qui facendo dei lunghi passi all'indietro, non soltanto pensando agli attentati firmati ISIS degli ultimi 3 o 4 anni. Sì, perché diciamo che nel libro mi ero proposto di andare a scavare sulla storia del Novecento, capire che certi fenomeni che noi con una enorme facilità classifichiamo come incomprensibili, deliranti, oppure che caratterizziamo con aggettivi emotivi che dovrebbero risolvere qualcosa, invece non risolvono nulla, perché chiamare quelli dell'ISIS tagliagole può far star bene chi usa quell'aggettivo, ma non ci dice nulla di utile su quello che fanno e perché lo fanno. E c'è una storia, che è anche una storia di fenomeni enormi, che per esempio nascono con il colonialismo e la decolonizzazione, che nascono anche in Italia con un ricollegarsi proprio a questi fenomeni, e in un contesto politico in cui oggi ovviamente non si possono neanche capire probabilmente quei frammenti, quegli stati d'animo, ma c'è stato un periodo in cui nella storia italiana l'opzione, diciamo così, di una lotta armata politica era un concetto comune per una larga parte di persone. Dico concetto, non atto, però era una cosa di cui si parlava. Così in altri paesi, per motivi che poi possono essere incastrati su rigide ideologie, diciamo così, laiche, o anche su ideologie religiose, l'opzione di andare a comunicare con il terrorismo, che lo ripeto, non lo dico come scandalo, però una cosa si chiama terrorismo e non guerra, perché se non produce un effetto di comunicazione non funziona. Un bombardamento di una città funziona a priori, un atto terroristico no, se non è comunicato non esiste. E quindi ho cercato di vedere questi grossi filoni, che poi in Italia sono particolarmente contorti, perché appunto ci sono le stragi del terrorismo neofascista, che sono una cosa, e ci sono le versioni e il terrorismo di sinistra, che è un fenomeno distinto, sanguinario e violento, ma sono anche ideologicamente staccati. Ho cercato di andare più in profondità, ma non voglio dire che sono stato particolarmente acuto nell'analisi, ma semplicemente ho detto: facciamo un passo indietro, non guardiamo solo l'effetto ultimo di quello che succede sul telegiornale delle 8, che può essere l'arresto di una persona coinvolta nell'ISIS o di uno che 40 anni fa ha fatto degli atti di terrorismo di sinistra. Guardiamo un po' da dove arrivano queste cose, che non vuol dire giustificare, ma nel modo più illuministico possibile vuol dire cercare di comprendere le cause, le ragioni che hanno portato questi fenomeni. Direi dare parecchi fili anche Gazzoia. Senta, ci torniamo subito a quei fili che lei riannoda. C'è una piccola parentesi narrativa che lei, una di quelle che lei si concede in questa storia, che però a me colpisce molto, anzi mi colpisce molto, se no faccio arrabbiare gli ascoltatori di Fahrenheit. Ci sono due fidanzati sul treno, due fidanzati, sì, che discutono, sono due ragazzi giovani, intelligenti, colti, di buone letture, e a un certo punto lui nomina sottomissione di Houellebecq, solo per dire che però è più importante 2084 di Boualem Sansal, che è un bravissimo scrittore algerino. E lei liquida il libro, parla di calunnia antimusulmana. Sono due ragazzi appunto di ottime intenzioni e ottime letture, eppure aver raccontato questa scena, ecco, dà quasi una sensazione, non dico di impotenza dei libri, però di incidere poco sulla nostra paura, sulla nostra realtà. Io lì ho un'opinione che non so se è minoritaria, però il motivo per cui non ho scritto un saggio, diciamo un saggio tradizionale, ammesso che ne fossi stato capace, ma ho fatto questa forma che anch'io volentieri chiamo ibrida, e secondo me ho fatto un'opera di letteratura, perché con un'opera di letteratura, bella o brutta che sia, potevo togliermi censure, autocensure che secondo me erano troppo pesanti in un tipo di discorso critico. Quelle due persone, quei due fidanzati, dove c'è ovviamente il ragazzo che fa quello che deve spiegare le cose, sì, alla ragazza per farle per dimostrare anche la sua superiorità intellettuale, lei che ovviamente non accetta questa posizione e che reagisce in maniera drastica, e che hanno tutti e due paura di ammettere quello che magari sotto sotto pensano. E ovviamente a me non interessava andare a dire una singola verità, però avere una opzione, diciamo così, di un'opera di letteratura mi consentiva di far risuonare, qualche volta cozzare, qualche volta amalgamare cose che nel discorso razionale, quando io parlo in prima persona come Alessandro Gazzoia, non direi, per una censura che penso anche giusta o per un'autocensura che magari è una ragione di opportunità. Quando nell'ultimo capitolo, che è quello dedicato anche a Salman Rushdie, dico una cosa che è una cosa che vale per il romanzo, ma diciamo vale anche per il mio libro, no? E il romanzo è il luogo, ed è anche per quello che è una forma così importante nella nostra cultura, dove ogni cosa, ogni persona, ogni idea può avere un suo singolo momento di parziale verità. E questo per me significava dare profondità anche a quello che è sbagliato, che è una cosa che io in quest'opera ho cercato di fare e che mi sembrava giusto fare nella mia idea di quello che si doveva raccontare. Senta, lei fa una cosa, Alessandro Gazzoia, di ricostruzione anche, andando a toccare uno di quei punti che si tocca molto raramente, a dire la verità. Siamo al 17 dicembre 1973. È la strage di Fiumicino. Non sono forse in molti a ricordarselo, moriranno 31 persone, 5 italiani, 17 americani, 4 marocchini, 5 di altre nazionalità, però fino a quel momento è la strage terroristica con il maggior numero di vittime in Italia. Allora, perché quel terribile episodio di Fiumicino poi si lega a tutto quello che viene dopo? Perché quello, quella è, diciamo così, è una strage che è ricordata solo come una strage dimenticata, mettiamola in questi termini. È un atto di terrorismo che è molto difficilmente catalogabile, perché coloro che l'hanno fatto erano palestinesi con tutta probabilità, ma era un atto che non era in nessun modo collegato in maniera diretta alla lotta armata palestinese, che aveva evitato l'Italia per ragioni geopolitiche che sono più o meno note, e che comunque non avrebbe mai compiuto un'opera così insensata. Quella è semplicemente un momento di esplosione violenta di persone che hanno in mano delle armi in un contesto di bassissima sicurezza, come erano gli aeroporti italiani anni 70, cose che oggi sono assolutamente inimmaginabili, e che compiono, perché lo possono fare, un gesto che nelle loro intenzioni è politico, nella realtà dei fatti può essere anche collegato a una causa di indipendenza nazionale, di riconoscimento come a quella palestinese, ma è una strage orribile. Oltretutto ammazzano anche delle persone come i diplomatici marocchini, che erano assolutamente favorevoli alla loro causa. È semplicemente, come qualche volta succede nella storia, perché la crudeltà insensata, la violenza che esplode e che non ha una ragione neanche di propaganda, mettiamola così. E su questo c'è stato poi, dicono alcuni, e io tenderei a pensare che lo dicono con qualche motivazione, un atto di censura politica, perché l'Italia, che immaginiamo sempre anche questa cosa, oggi il nostro paese a livello geopolitico è importante ma non è decisivo. Negli anni 70 noi eravamo un paese fondamentale nell'equilibrio mondiale, e quindi quello che succedeva in Italia incrociava il blocco comunista, incrociava gli Stati Uniti, incrociava il mondo arabo, con cui noi avevamo avuto sempre rapporti, diciamo così, di grossa apertura al dialogo, e c'erano delle cose che passavano sopra la nostra testa. Il Lodo Moro. È il famoso Lodo Moro, che appunto si dice che ci fosse una sorta di accordo voluto da Moro quando era ministro degli esteri, per cui il nostro paese veniva tenuto fuori da ogni tipo di attacco terroristico legato al movimento di liberazione palestinese. E in cambio potevano usare, sembra, l'Italia come paese di comunicazione, di passaggio per armamenti o per altro, e quindi eravamo una terra che era, sembra, lasciata stare, appunto, per un insieme di equilibri che poi hanno anche magari equilibri economici, perché noi siamo il famoso paese che ha una enorme dipendenza da risorse energetiche straniere, e guarda caso chi ha il petrolio è un certo gruppo di paesi, e quindi si vanno. Io lì ho sempre paura, una delle cose che mi dà più fastidio, e nel libro credo si veda, è il complottismo facile sugli anni 70. Però dire che c'è un complottismo facile sugli anni 70 non vuol dire negare che comunque punti oscuri, cose molto intricate in quegli anni sono accadute. Ecco, ed è poi accaduta un'altra cosa, e anche qui nella parte narrativa e di ricostruzione del suo libro Alessandro Gazzaia lei la mette davvero molto bene a fuoco, è quello che lei chiama l'approdo accogliente della postmodernità. Cioè c'è un momento, stiamo parlando in questo caso degli anni dell'inizio degli anni 90, dove a Fuori Orario, curato da Enrico Ghezzi, si ritrasmettono spesso le immagini, le parole di quegli anni. Si trasmette il filmato con il ritrovamento del cadavere di Moro, ma si trasmette anche lo sguardo smarrito di Roberto Pesci prima di essere ucciso. Si trasmettono le parole, l'audio, i colloqui con i terroristi, le interviste che rilasciarono già negli anni Ottanta. Ecco, tutto questo che, ecco, magari viene intervallato da qualche cos'altro. E che cosa diventa per chi non c'era in quegli anni e per chi apprende magari la paura di quegli anni attraverso quel filtro? Che cosa cambia? Lei ha detto giustamente che l'immaginario incide sulla realtà. Ecco, questo immaginario com'è inciso secondo lei? Quello è il punto, diciamo, che dove il personaggio che dice io nel libro è più vicino alla mia esperienza personale, perché appunto io davvero ho conosciuto quei fenomeni tramite Fuori Orario, nel senso che ho quando avevo 18 anni a mezzanotte e mezza i miei amici andavano in discoteca, io tornavo a casa a vedere Fuori Orario, con enormi conseguenze sulla mia vita sociale successiva, ma anche sulla certa erudizione sopra quegli anni. Ed era per me tutto totalmente incomprensibile. Era accaduto 10 anni prima, i fili c'erano ancora. Quando io poi andavo all'università a Genova, mi trovavo in un ambiente, la mia casa dello studente veniva ricordata quella dove aveva dormito Ali Akça, la mia università era quella dove c'erano comunque state le retate nel 79 e si sapevano bene alcune storie ancora più o meno mitiche all'interno di quell'area. Però era un qualcosa che negli anni 90, che ricordiamocelo, era quell'intervallo, diciamo così, di pacificazione, dove la storia sembrava finita, dove a livello geopolitico non c'erano grossi sommovimenti, ed era, diciamo così, almeno da me, non mi vergogno a dirlo, goduta nella sua assoluta incomprensibilità ed eccezionalità. Un'altra cosa che ho, un altro oggetto a cui ho sentito di dare omaggio nel libro è Diavoli in corpo di Bellocchio, che è uno dei film decisivi degli anni Ottanta, e però per me era più incomprensibile del monolito di Kubrick, cosa fosse quell'oggetto. E poi da lì ho cercato, ovviamente, e lo dice anche il personaggio di quel libro lì, arrivi con una fascinazione su questi fenomeni e poi però c'è anche l'esigenza di una comprensione critica che è stata comunque per me una conquista di anni, facendosi largo tra, diciamo, usando una famosa espressione in un senso diverso, tra opposti estremismi, e farmi un pensiero su cosa fossero, che per esempio anche un'idea di sapere che la violenza politica esiste ed è la cosa più stupida è definire deliranti i comunicati delle Brigate Rosse, perché possono essere folli nei loro propositi, ma facevano parte di un insieme testuale che ha delle radici chiarissime, cioè non ci vuole un filologo per capire. Quindi superare quelle censure sociali è stato il primo passo per me per riflettere su questi fenomeni, che poi come si vede hanno appunto un certo fascino su quello che hanno anche una storia che a volte, sì, proprio a me ha colpito molto quando lei coglie una somiglianza, cioè un combattente dello Stato islamico in Occidente che pronuncia il suo giuramento ad al-Baghdadi e giunge il pollice e il medio e l'indice punta verso l'alto. E due delle tre dita, lei scrive, alzate a P38, cioè una sovrapposizione di simboli. Ecco, forse è questo che occorrerebbe imparare. Il suo libro effettivamente ci aiuta a farlo, anche a decifrarli questi simboli che noi ritroviamo quasi frullati insieme con l'unica denominazione appunto della paura e del terrore, però imparare a distinguerli, imparare a capire, forse potrebbe essere un passo per smettere di provarla quella paura. Sì, perché non, assolutamente ci vuole una comprensione che non può fermarsi alla demonizzazione e alla condanna. Qui c'è sempre un problema quando si usa il verbo comprendere, perché comprendere può sembrare andare a sbordare troppo sul giustificare, ma sono fenomeni che vanno intesi nel loro contesto sociale, nelle loro motivazioni anche ideali, perché comunque non deve scandalizzare nessuno sapere che chi compie atti terroristici, che siano direttamente suicidi o che comunque prevedano molto facilmente che il terrorista perisca nell'opera o si faccia l'ergastolo, erano motivati da ragioni ideali. Cioè, poi queste ragioni ideali sono comunque collegate a un contesto sociale. Per fare un esempio molto chiaro, l'ISIS 2 anni fa sembrava una forza che sarebbe durata 20 anni con dei militanti che erano martiri, avrebbero combattuto fino alla morte. Poi le cose sono cambiate ed è cambiata anche, diciamo così, la motivazione del singolo. Però i gruppi sociali possono anche andare a incidere sull'ideologia, su cosa motiva il singolo, e possono diventare queste ragioni politiche o religiose motivi di vita e di morte, e vanno compresi. Se non li comprendi, dici che sono dei pazzi, ma una volta che hai detto che sono dei pazzi non hai fatto nulla se non accrescere il tuo sentimento di paura, perché appunto il pazzo è quello che io esco da qui, il famoso squilibrato arriva e mi taglia la gola, che cosa ci fai? Nulla. Se invece cerchi di conoscere i fenomeni anche nel loro contesto storico di sviluppo, secondo me è un primo passo per emanciparsi da una paura che poi, appunto, ci tengo molto a dirlo perché è comunque importante, 50 morti terrorizzano 500 milioni di europei. In un'altra parte del mondo quei 50 morti sarebbero il bilancio quotidiano, perché noi viviamo in una condizione di sicurezza che pigliamo per scontata e che comunque e che invece è inedita anche nella nostra storia europea. Io penso sempre che, e qui finisco, noi abbiamo questo enorme rimosso dalla guerra in Jugoslavia, che accadeva a casa nostra, è stata una cosa incredibile, e facciamo finta che nel cuore dell'Europa non sia successo quello proprio in quegli anni 90 lì. Perciò è molto facile scordarsi le cose e darle per scontate, a cominciare dalla vita civile. Secondo me bisogna prenderlo un po' più sul serio, averlo un po' più care e sapere che sono anche delicate. Senta, c'è un'ultima domanda che vorrei farle, perché le ultime pagine del libro sono dedicate a un altro tipo di paura. Sì. È la paura della malattia, è la paura della morte, perché avviene che una donna che le è cara, improvvisamente si ammali gravemente di tumore. Perché ha voluto raccontare questa storia alla fine del libro? Perché quello lì, allora, quello che un amico Davide Orecchio dice, che nel libro a un certo punto arriva un alieno, ed effettivamente è un alieno, però per me il libro si chiude e si, diciamo così, precipita tutto in quel punto, perché mentre tutte le altre paure, mentre io in treno posso aver paura di una persona che passa, che mi fa una mezza impressione strana, mentre oppure posso ricordare un attentato che succede a 60 km da casa mia, che è Nizza, ma che comunque è una cosa imponderabile, statisticamente irrilevante, abbiamo poi invece delle cose che toccano le nostre vite come atti di terrore puro, e che sono quello con cui tutti noi, in un modo o nell'altro, ci ritroviamo a convivere sempre di più. Poi quella scena in ospedale è importante anche perché l'ultimo capitolo è anche quello sulla libertà di espressione e su, diciamo, l'importanza della religione e dei precetti religiosi in un paese come l'Italia, senza stare a dilungarmi, però in quella persona malata di cancro si ritrova un crocifisso nella stanza, e comunque è una cosa che non è così scontata, come tante altre, come appunto la posizione verso, che adesso è cambiata rispetto a quando io scrivevo quelle pagine sul fine vita. E per esempio io penso che vivrò fino a 95 anni e non vorrei fare la fine di Monicelli, che viene citato che tra l'altro in questo finale, che viene citato. Quelle per me sono le mie paure terrorizzanti vere, penso che siano anche molto più probabili che un attentato terroristico. Grazie. Giusto terrore, storie dal nostro tempo conteso, uscito per il Saggiatore, l'ho scritto Alessandro Gazzoia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Loredano. Serge Gainsbourg, ancora Histoire de Melodie Nelson, continua il racconto in musica di Gainsbourg con A Melodie.